per il tempo del 9 del mattino. E per il tempo dell'uomene macchina, e inizio l'era degli uomini di scarica. Cassa integrazione in una fabbrica, producevano roba stupida. Bombardato dal sesso e da tutto quello che non posso permettermi, rincoglionito mai come adesso da icone che mi stanno addosso per sottomettermi. È una questione di qualità, quantità. Prima ero un prato, ora sono una discarica. È una questione di qualità. Chi fa l'amore, chi gira per vetrine ad Amsterdam. Uomini di scarica, dove scaricare tutte le paure, tutte le ossessioni che ti pare. Donne di scarica, dove scaricare tutto quello che non sapete riciclare. Uomini di scarica, dove scaricare i rifiuti tossici che non sapete più nascondere. Donne di scarica, dove scaricare, pronte ad accettare fino ad esplodere. Siete brutti come le latrine del CIE, squalidi come le vostre bugie. C'è un virus nuovo in saldo nelle farmacie che curerà in un lampo le tue malattie. Ma c'è un barcone dall'Africa, Africa, che porta negri ad invaderla. Ho una soluzione rapida, rapida, spray urticante alla paprika. Lattine di troppo, giornali di troppo, ladroni al galoppo con il malloppo. Persone di troppo e copertoni, bruciamo tutto in inceneritori. A Natale s'affoga nel Mediterraneo il mare, non brucia ma brucia il reato. A Natale s'affoga nel Mediterraneo il mare, non brucia ma brucia. Uomini di scarica, dove scaricare tutte le paure, tutte le ossessioni che mi pare. Donne di scarica, dove scaricare tutto quello che non sapete riciclare. Uomini di scarica, dove scaricare i rifiuti tossici che non sapete più nascondere. Donne di scarica, dove scaricare, pronte ad accettare fino ad esplodere. Diamo una mano a Borghezio a pulire i treni al posto degli impiegati statali. Diamo una mano alla D'Urso a dire stronzate, a dire stronzate epocalisse. Questo ventennio si ricorderà, banane, per la sua banalità, banane. Un libro di storia parlerà, banane, dell'era della stupidità. Ma era il mio tempo, banane, era il mio tempo e dovevo partecipare. Mi sono riempito la testa, banane, la testa e la bocca, la testa e la bocca, la testa e la bocca, la testa e la bocca, la testa e la bocca, la testa e la bocca, la testa e la bocca. Di me, da me, di me, da me. Uomini di scarica, dove scaricare tutte le paure, tutte le ossessioni che ti pare. Donne di scarica, dove scaricare tutto quello che non sapete riciclare. Uomini di scarica, dove scaricare i tossici che non sapete più nascondere. Donne di scarica, dove scaricare, pronte ad accettare fino ad esplodere. Banane.